Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24 è la caduta degli dèi. Siamo qui a parlare del fallimento della General Motors, che, come ricorda il Wall Street Journal di oggi, è cominciato con una rimozione, diciamo così, con una bugia, vogliamo dire. Denial è la forma che nella lingua inglese assume questo concetto. Il 10 luglio dell'anno scorso il capo della General Motors, Rick Wagoner, insomma, è salito su un piccolo podietto a Dallas in Texas e ha detto che le cose andavano tutto sommato bene, che al massimo avrebbero dovuto cedere la Humvee, un ramo d'azienda e un modello non di successo, ma che per il resto non ci sarebbero stati problemi e che tutte le speculazioni intorno a una possibile bancarotta erano assolutamente inaccurate, imprecise, inesatte, eccetera, eccetera. Ed eccoci qui. GM invece è fallita 10 mesi dopo, e con GM è fallito qualcosa di importante. Intanto, non soltanto poi, le faccende, ma qui non c'è l'orologio. Ah sì, eccolo lì l'orologio. Le faccende, di occupazione, che sono quelle più importanti, di salvezza sociale del pianeta che ruota intorno alla General Motors americana, saranno in qualche modo risolte con palliativi, con interventi. Lo Stato è entrato dentro GM, è ormai tra il 60 e il 70%, ci ha messo un sacco di miliardi di dollari. Il problema è che è caduto un simbolo, è stato abbattuto un simbolo, è stata abbattuta una fabbrica d'avanguardia che una volta era enorme, gigantesca, mostruosa, era insieme la Toyota, la Microsoft e non so che altro, tutto in uno. È stato abbattuto poi un simbolo di benessere, di stile di vita, la grande fabbrica che ti garantiva il welfare. Il welfare pare essere, secondo Massimo Mucchetti del Corriere della Sera, in fondo la questione fondamentale che ha portato al fallimento della General Motors. È una grande storia nella quale siamo direttamente coinvolti, perché mentre fallisce la General Motors fallisce anche il tentativo di Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, di prendersi la Opel, non comprarsela, perché la Fiat non vuole mettere un quattrino nelle sue proposte industriali, ma prendersela in virtù delle sue buone idee e in virtù del suo buon piazzamento per costruire insieme con la Chrysler un gigante produttivo dell'automobile, uno dei sei grandi capaci di produrre 5-6 milioni di vetture all'anno. È fallito, e adesso discuteremo con i nostri ospiti questo fallimento parallelo, GM e Fiat Opel, e cercheremo di capirne le conseguenze. Eccoci qua. Allora, devo chiedere per primo a Oscar Giannino un commento sul fallimento di General Motors. È vero quello che dice Mucchetti, e cioè che quei 2.000 euro per vettura in più che soprattutto negli ultimi 20 anni General Motors ha dovuto mettere come costo welfare sono stati decisivi nella concorrenza con la Toyota, oppure è vero che gli errori di management, di modelli, di marketing, perché insomma le componenti sono tante, di tecnologia, di ricerca, dov'è la vera ragione per cui la grande fabbrica del mito americano fallisce improvvisamente, o almeno improvvisamente, nel senso che ce ne accorgiamo improvvisamente e trascina nella polvere il mito? Ma buongiorno, veda, io non sono molto dell'idea che il fallimento di General Motors derivi dal fallimento di un modello di welfare, cioè di sanità e di previdenza privata, in cui i liberi contratti degli individui con un sistema di contribuzione si cautelano per il proprio futuro. No, io credo un'altra cosa invece. Credo che quando per 20 anni un cattivo sindacato, come è stato il sindacato automobilistico americano, e molte pressioni politiche che i giganti dell'auto americano, quelli non controllati da una famiglia, la Ford, che infatti si salva, ma quelli che hanno un capitale diffuso, sono soggetti a molte pressioni politiche. Ecco, quando questi due soggetti, cioè un cattivo sindacato che impone paghe anche di $30 l'ora superiore a quelle che negli Stati Uniti, in stabilimenti di concorrenti di General Motors, si praticavano negli stessi anni, quindi un cattivo sindacato, e poi molte pressioni politiche inducono i manager a non fare i manager, cioè a non pensare al profitto, diciamo, e a reggere la concorrenza. Scusi, Giannino, alla fine, Giannino, ecco il risultato. Giannino, scusi, noi diciamo che i sindacati italiani sono cattivi sindacati perché i salari sono troppo bassi e dagli accordi del 93 e da quel modello contrattuale sono venuti fuori salari troppo bassi. Sono cattivi anche i sindacati americani perché i salari sono troppo alti. Allora sono sempre cattivi i sindacati. Come no, la facciamo? Perché il problema è che il sindacato americano, a differenza del nostro, come lei sa, non è omogeneo. Lì non ci sono contratti centralizzati nazionali. Lì esistono isole di grande, storica, tradizionale forza di sindacati della vecchia fase fordista di un secolo fa, di 80 anni fa negli Stati Uniti, e resistono nell'auto soprattutto, e quindi c'è questo sindacato United Auto Workers, e questo sindacato ha imposto a General Motors negli anni, con la connivenza dei manager ma con gli applausi della politica, delle politiche retributive assolutamente fuori mercato. Allora io dico che in quel caso un cattivo sindacato, molte pressioni politiche hanno indotto i manager a dire, come poi puntualmente è avvenuto, e vabbè, non facciamo utili come dovremmo, non pensiamo soprattutto a fare modelli più concorrenziali, perché la politica e il sindacato uniti alla fine otterranno il risultato che questa azienda ci avrà sempre qualcuno che ci pensa, cioè il contribuente, ed è andata puntualmente così. Quindi la mia opinione è che ci sia da rivedere molto su questi due fattori e non sul modello del welfare privato, perché il welfare privato altrove negli Stati Uniti, nelle aziende che sono libere di fare il loro mestiere, e non va in crisi, quindi vuol dire che noi, ma non è quello, questa è una conseguenza, non è una causa, a meno che ovviamente non si sia convinti che comunque il modello europeo è superiore a quello americano. Bene, Oscar Giannino, come tutti sapete, è giornalista economico, è stato direttore fino a poco tempo fa del quotidiano milanese Libero Mercato. Abeda Romano, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte e che ha seguito con grande vivacità e pieno di ricco di notizie, diciamo, tutta la storia del negoziato fra Marchionne e chi? Bah, chi lo sa, insomma, Marchionne Obama, Marchionne Merkel, Marchionne General Motors, Marchionne management della Opel e chissà quali altre forze e potenze, Putin, le banche russe, il Canada, Magna, insomma è stata una trattativa fantascientifica, bellissima, interessantissima, un grande romanzo. Alla fine abbiamo perso. Perché abbiamo perso, Beda Romano? Ma credo che la sconfitta, se si può parlare di sconfitta di Fiat in questo caso... Si deve, credo. Ho l'impressione si debba parlare di sconfitta. La ragione è, credo, i sindacati fondamentalmente. I sindacati e il voto di settembre che rinnoverà il Bundestag in Germania. Questi credo siano i due elementi cruciali che spiegano la sconfitta della Fiat. Prima di tutto il sindacato si è subito opposto alla fusione Opel-Fiat, soprattutto il consiglio di fabbrica di Opel, e lo ha fatto favorendo Magna, che è poi la società che dovrebbe acquistare Opel, e il sindacato si è opposto per paura di esuberi e per paura di sovrapposizioni, e lo ha fatto anche perché ha avuto nel passato un rapporto con Fiat, quando Fiat aveva una relazione con General Motors, sì. E quel periodo non è ricordato con favore. Se il sindacato si è opposto e si è opposto con successo, è perché fra 4 mesi la Germania torna a votare e il sindacato sapeva di poter contare in questo contesto sull'appoggio dei socialdemocratici. Allora, la Germania va a votare in settembre, ma va a votare dopo 4 anni di grande coalizione tra i socialdemocratici, sì, e i democristiani. Questa non è una campagna elettorale normale, sì, è una campagna elettorale tra due partiti che non ne possono più di governare insieme, sì, e che stanno cercando disperatamente di ritornare al potere, ma da soli, non con l'altro grande partito popolare. Ecco perché Fiat non è riuscito a vincere questa partita. La battaglia era di un'incollatura. Per fortuna che ci sono i sindacati, se no non sapremo con chi prendercela per le nostre sconfitte. No, voglio dire una cosa, Beda Romano. È giusto quello che lei ha detto, è evidente, lo hanno colto tutti. Però, estendo la domanda adesso a Daniele Bellasio, vice direttore del Foglio, ma si può veramente, la crisi naturalmente è tale per cui, come ci disse Giacomo Vaciago, il problema, i soldi non sono più un problema, perché gli stati ne mettono tanti nell'industria, i prestiti, i soldi non sono più un problema, il problema sono le idee, i piani industriali, ma è proprio vero che si può vincere un'asta senza una lira? Bellasio. La scommessa di Marchionne partiva da una buona strategia, cioè il suo ragionamento era: in un mercato in crisi come quello dell'auto, Marchionne ricorda che ogni anno si possono vendere il 20% in più delle macchine che invece in realtà il mercato vuole, cioè potrebbero essere prodotte 9 macchine se ne vendono solo 6, quindi questo è proprio l'esempio di come il mercato sia vicino alla saturazione. In un mercato del genere, pensava Marchionne, bisogna fare i modelli migliori e coprire tutta la gamma, e per questo aveva pensato che la Fiat, che aveva 2 o 3 modelli molto forti, potesse essere il polo aggregatore di 2 aziende invece in difficoltà come Chrysler e Opel. Da una buona strategia ha commesso un errore tattico, e vengo alla sua domanda di soldi. Non potendo mettere sul piatto il peso di un quattrino molto convincente nei confronti del proprietario di Opel, che era General Motors, e della politica tedesca, che è quindi la Merkel. Però io qui chiedo perché non poteva mettere soldi sul piatto. Voglio dire, per la storia di Alitalia, che pure insomma è apparsa per molto tempo un mezzo bidone, insomma sono stati trovati fior di quattrini con Banca Intesa. Guardi, le do una risposta di questo tipo. Ogni giorno Chrysler perde 100 milioni di dollari, ogni giorno. Marchionne tra qualche giorno sarà il capo di un'azienda che al giorno perde 100 milioni di dollari. Soltanto questo, come ha detto il presidente Montezemolo, è un obiettivo e uno scopo, risanare un'azienda di questo tipo, da far tremare le vene ai polsi in un mercato in crisi o in difficoltà come quello dell'auto. Si figuri se un'azienda italiana riesce addirittura a trovare investimenti per comprare aziende che ogni giorno perdono soldi e non ne producono. Quindi la scommessa di Marchionne era quella di dire, posso contestare la cifra, mi sembra troppo, 100 milioni di dollari al giorno, anche per un fallimento. Guardi, in 10 giorni 1 miliardo di dollari, in un mese 3 miliardi di dollari, in un anno 36 miliardi di dollari. Beh, può essere, sì, effettivamente. Guardi, le cifre sono quelle. Il prestito ponte, sì, per gestire fino a fine mese, pensato dal governo tedesco, è di 1,5 sì, miliardi di euro. È vero, le dimensioni sono quelle, sì. Fa impressione però, 100 milioni di dollari al giorno. In fondo la povera Alitalia, che l'abbiamo tutti impiccata alle sue responsabilità, quanto perdeva? Milione, 2 milioni, non sì, 100 milioni al giorno. Sì, stiamo parlando però appunto di Chrysler, quindi certo. Di un'azienda. Per cui si figuri se uno vuole metterci pure dei soldi per comprare delle aziende che dal giorno dopo dei soldi te li fanno perdere, che tu devi distruggere per arrivare. Quindi diciamo il grosso errore di Marchionne è stato quello di puntare soltanto sull'aspetto delle auto, cioè del prodotto, e del progetto, che era chiaro e semplice. Il progetto di Marchionne era: io devo avere tutta la gamma dei prodotti, devo essere molto forte in tutto il mondo, devo vendere le auto piccole in America e vendere le auto grandi che produco in America in Europa. Purtroppo con questo errore legato alla sottovalutazione della politica, la carenza di soldi, ora si ritrova Fiat, a mio modo di vedere, con un enorme problema, che è appunto quello di Chrysler, perché il piano di Marchionne stava in piedi ed era pensato proprio con i 3 piedi. Opel, adesso Chrysler, cosa fare, ci arriveremo. Noto che lei la pensa più o meno come Federico Rampini, il quale ha scritto che Marchionne e tutti i top manager del suo settore devono rassegnarsi al fatto che l'industria automobilistica sarà più che mai un settore ad alta intensità di interferenze politiche. Nessun chief executive può considerarsi oggi autonomo dai contribuenti. Volevo chiedere a Giannino, dunque, Riotta sostiene che Obama non permetterà mai la delocalizzazione competitiva di General Motors. Cioè General Motors non può andare a produrre nel sud e smantellare Detroit, perché tutto sommato l'Ohio, il Michigan, il Wisconsin, insomma la fascia dell'auto del nord è il bacino elettorale, politico, sindacale, sociale della presidenza Obama. È lì che lui ha veramente vinto contro i repubblicani. E allora dice la General Motors è destinata a morire. Il fallimento è una specie di grande palliativo e si cercherà, diciamo, di trovare delle soluzioni con un declino controllato, ecco, non un precipitare dell'industria dell'auto, ma un declino controllato. Le sembra realistica questa visione delle cose, o lei pensa che la General Motors magari fra 10 anni, proprio perché è fallita, ricordiamoci che nel capitalismo i fallimenti sono un fatto sano, vitale, da un certo punto di vista, sono la controprova, gestisci male, fallisci e poi riprendi la strada. Che succederà secondo lei? È la morte o no? Io la penso più come lei che come Riotta, cioè condivido con Riotta l'analisi che influenza politica negli Stati Uniti su come verrà condotto il risanamento di General Motors appena usciti dal Chapter 11, cioè dalle procedure di fallimento che, ha ragione lei, sono molto più sagge negli Stati Uniti dal punto di vista dell'ordinamento giuridico rispetto che da noi, ma il risanamento successivo sarà molto influenzato da questo fattore politico. Molti sono gli elementi che lo confermano, per esempio nel mettersi d'accordo con la Merkel, con il governo tedesco, nel considerare Opel controllato da General Motors al di fuori del Chapter 11, affidandosi quindi alla soluzione politica creata in Germania con Magna, hanno messo una condizione quelli dell'amministrazione americana, sì, e hanno detto ci fate il favore però e Opel non verrà nel nostro mercato americano, perché già dobbiamo risanare General Motors, quindi state lontani. Quindi questa è la dimostrazione di come la politica tenda, certo, poi a proteggere. Detto questo, la mia opinione però è che General Motors, se verrà lasciata libera di condurre il risanamento in termini molto energici, cioè non basta la chiusura degli stabilimenti che fa parte della procedura del fallimento, bisognerà incidere molto più radicalmente, abbia in sé delle potenzialità straordinarie che sono quelle della sua storia, sono quelle di un radicamento come rete commerciale molto forte negli Stati Uniti, e insomma stiamo parlando di un'azienda che è vero nel massimo storico aveva il 52% del mercato americano, adesso che è al minimo storico ha pur sempre il 19% del più grande mercato automobilistico del mondo, cioè gli Stati Uniti. Quindi non stiamo parlando proprio di pizza fichi come dicono a Roma. La mia opinione è oltretutto che c'è una controprova, la Ford ce la fa. Esattamente. Cioè nelle stesse condizioni sindacali, nella stessa area, c'è chi fallisce, c'è chi non fallisce per adesso. La questione è che la Ford mette in questione un altro problema, e cioè se poi le grandissime aziende di tecnologia matura come quella dell'auto, sì, a differenza di quelle petrolifere, possano essere davvero condotte con più successo, con capitale diffuso, cioè con manager che rispondono solo al mercato, come nel caso di General Motors, si direbbe di no, o se invece poi alla fine le sfide dell'auto non le reggano meglio quelle aziende in cui una famiglia o comunque un azionista stabile è in grado di dire al manager guarda, questo è il limite di indebitamento, questo è il limite di profitto, e si direbbe di sì da tutto quello che sta succedendo sul cioè mercato. Cioè meglio una famiglia con i suoi interessi, diciamo, patrimoniali diretti, di business. Se sa fare bene il suo mestiere, meglio una famiglia. È il caso di Ford, è il caso di Peugeot, è il caso di Quantum BMW, è il caso di Fiat, mentre invece il grande modello di General Motors che tutti abbiamo studiato. È curioso, per fare le automobili vanno meglio le famiglie che le public companies, sì, è interessante. E perché devo interrompere, è che questo dipenda molto dalle tecnologie. Le imprese più tecnologiche secondo me sono più adeguate a manager che sono liberi da un azionista stabile e rispondano al mercato. Quelli con tecnologie mature hanno bisogno di più stabilità, perché stabilità altrimenti le stupidaggini finanziarie nazionali poi le paga il contribuente. Va bene. Bene, 800 24 00 24, parliamo del fallimento della General Motors e della sconfitta di Marchionne nel tentativo di accaparrarsi la Opel. Amerigo da Roma, prego. Amerigo. Buongiorno a tutti. Volevo porre questa mattina l'accento sul momento cruciale in cui si viene a trovare un'industria così capitale, così importante a livello mondiale. Cosa voglio dire? così come Marchionne, almeno per quello che risulta a me, ha incarnato un'intuizione non solo sua, ma lui l'ha incarnata abbastanza bene, di fare sintesi comunque di un mondo automobilistico che non gliela fa più in questa diversificazione esistente, alla stessa maniera mi chiedo se non si può in coscienza incarnare dall'altra parte, di rivedere quello che può essere un modello che si sta superando, e quindi comunque fare in modo che non ci si arrocchi, come forse fanno spesso etichette sindacali, per paura di esuberi giustamente, per paura di sovrapposizioni giustamente e quant'altro. Allora voglio dire, il mio accento in particolare è questo, ci si vuole rendere conto, prendere coscienza che sì, forse abbiamo capito molto bene, quello che lei definisce il suo accento. Grazie, mi dico. Renato da Roma, Renato. Buongiorno. Buongiorno. 800 24 0024, Renato da Roma, prego. Buongiorno, sono Renato Pascariello. Buongiorno a tutti, semplicemente questo. Gli uomini, vorrei ricordare, hanno potuto sempre camminare con le proprie gambe, d'accordo? L'automobile è stato un bellissimo mito, dico bellissimo tra virgolette. Allora facciano una cosa a livello mondiale, si cerca in tutti i modi di uscire quanto prima dall'economia del petrolio, si promuova la ricerca naturalmente di nuovi modi per spostarsi, insomma si investe nella ricerca scientifica, e ci saranno sicuramente, lo speriamo se volete, tanti posti di lavoro, perché i miti, lei lo sa dal greco, il mito non è realtà, il mito è leggenda. Non bisogna aspettare che cada un'altra leggenda per investire denari, è vero, dell'industria automobilistica nella ricerca scientifica per trovare nuovi sistemi di locomozione. Bene, è un'opinione da analista industriale con retroterra umanistico greco. Bene, la distruzione dei miti. Però io vorrei capire una cosa, Beda Romano. Quando ero ragazzo, ero a Torino, mi occupavo dell'organizzazione operaia nel Partito Comunista, nel gruppo Fiat, e i dirigenti politici, anche i più prestigiosi e sindacali, dicevano che bisognava trovare un nuovo modo di fare l'automobile. Ai più realisti tra noi sembrava una cosa un po' curiosa, insomma, sì, il progresso della tecnologia, naturalmente il modo di fare l'automobile in linea di montaggio doveva cambiare e sarebbe radicalmente cambiato, la ricerca, insomma, ma l'agitazione mitica che adesso si ripropone con Obama di un nuovo orizzonte per l'automobile, adesso vogliono fare le auto piccole, le auto ecologiche, le auto a basso consumo energetico, ma tutto questo ha una reale prospettiva di mercato? Ma i tedeschi credono di sì. I tedeschi credono di sì, i tedeschi sono ma i tedeschi non hanno il limite di velocità sulle autostrade, vanno a 240 su quei bolidi, la BMW, sì, le Mercedes, ma quali auto ecologiche? È vero, eh? È vero, ma stanno lavorando tantissimo su quel fronte e stanno lavorando moltissimo su tutto quello che è industria ambientale. Io non credo che vi sia paese al mondo più all'avanguardia per quanto riguarda l'industria ambientale. È vero che le macchine tedesche consumano molto più di altre macchine, in particolare francesi e italiane, ma io sono convinto che quando i tedeschi hanno deciso qualche anno fa di rivoluzionare l'industria automobilistica e cercare di renderla più ecologica, sì, beh, io credo che a questo punto hanno già fatto un passo in avanti enorme rispetto ai suoi concorrenti. BMW, per esempio, sta lavorando su dei motori molto molto più ecologici di quelli che adesso sono per strada, e la Volkswagen lo sta facendo da tempo, concorrendo e facendo concorrenza a Toyota. Quindi se devo credere a quello che vedo in altri settori dell'industria tedesca, beh, ho l'impressione che auto ecologiche del futuro verranno dalla Germania. Bene, questa è una notizia interessante. Giuliano da Torino. Buongiorno, io volevo fare due specifiche considerazioni, una su quanto diceva il dottor Giannino sulla famiglia o sulla public company. Secondo me è poi sempre questione di top management, perché Rick Wagoner, il CEO della General Motors, da anni ormai che stava portando sul pendio del fallimento. Se voi ricordate la trattativa per la put con la Fiat, lui arrivò a pagare 2 miliardi per non fare esercitare una put che né governi né sindacati né nessuno avrebbero permesso a Fiat di esercitare, perché pensando a quello che poteva fare la General Motors, licenziamenti, chiusure, lo stesso caso avvenne poi con l'AT&T quando voleva comprare la Telecom Italia, ci sarebbe stata un'alzata di scudi e lui pagò comunque 2 miliardi per non far esercitare la put che nessuno, ripeto, avrebbe permesso di esercitare. E poi, effettivamente, come diceva prima Giannino, se ci fosse stato un azionista stabile alla General Motors, come c'è, alla Ford gli avrebbe detto scusi 2 miliardi eccetera, allora si accomodi, però il giorno dopo sarebbe stato defenestrato. E quindi la General Motors poteva avere un'altra aspettativa. E poi per quanto riguarda il dottor Marchione, mi sembra che lui si è dimostrato un grande valido manager, perché nella trattativa con Opel, io ho studiato le prime cose che si fa quando si fa marketing eccetera, uno della concorrenza non è che se ne possa parlare è proprio malamente, lui è arrivato lì dicendo che se un suo dirigente gli avesse presentato il piano di Magna l'avrebbe licenziato immediatamente. Quindi in una trattativa così importante mi sembra che sia un aspetto da non sottovalutare. Sì, Marchionne è veramente molto bravo, però mostra alcune mancanze. La prima mancanza è una giacca e una cravatta, che secondo me sono utili nei negoziati internazionali. Lo zainetto e il pullover non mi sembrano propriamente, insomma, il marchio di stile. Sono troppo eccentrici, sembrava un inglese, non un abruzzese canadese. Questo è stato il primo errore, la prima mancanza. La seconda mancanza effettivamente è questa di parlare male dei concorrenti, e nel caso della dichiarazione sulla soap opera un po' sprezzante, dice ma qui sembra una soap opera brasiliana. Beh, Marchione si è improvvisamente dimenticato, ha avuto un obnubilamento del fatto che la Fiat ha molti interessi in Brasile e in Brasile raccoglie molte risorse, esprime in Brasile molta capacità produttiva. Anche lì parlare male del Brasile non so quanto fosse consigliabile. Gianluigi da Bologna, grazie Giuliano da Torino. Gianluigi da Bologna. Buongiorno, mi riallaccio Buongiorno. Proprio all'ultima sua frase. Nel senso che io credo che Marchionne in realtà in questa trattativa giocasse su due tavoli, uno manifesto, la Germania, uno più occulto, il Sud America, e l'interesse reale rimanga il Sud America piuttosto che impegolarsi in una situazione tedesca che l'avrebbe trovato estremamente in difficoltà, come già è stata per l'Iveco. E quindi in realtà abbia ancora aperte delle opportunità verso il Sud America, che potrebbe completare anche geograficamente il suo tavolo a tre gambe, invece che con un'altra gamba in Europa, dove è già fortemente presente, con una gamba in Sud America, oltre al Nord America, oltre all'Europa e poi eventualmente l'Asia con l'India. Bene, passiamo adesso alla politica, perché grazie molto a Gianluigi da Bologna. Alla politica, ma non nel senso che improvvisamente ci mettiamo a discutere delle elezioni, ma nel senso che Tremonti ha trovato una formula abbastanza curiosa per raccontarci quello che è successo. Dice, ma i nostri sono andati lì a negoziare, nel senso che erano andati lì per giocare a calcio, e gli altri sono messi a giocare a rugby e quindi li hanno placcati. Insomma, hanno violato tutte le regole di un serio e civile negoziato, in parte di mercato, in parte politico, fra tutti questi centri, diciamo, di potenza che abbiamo elencato all'inizio della trasmissione, dalla Casa Bianca alla Cancelleria tedesca, alla sede della General Motors a Detroit, a tutto il resto. Bene, questo è quello che ha detto Tremonti. C'è un'altra scuola di... E Tremonti poi ha aggiunto... Ma forse Berlusconi avrebbe potuto influire con il peso, diciamo, di ciò che rappresenta oggi il governo italiano. D'altra parte, appunto, ci sono stati casi in cui trattative industriali, di piani industriali, sono state fatte con il determinante contributo del governo italiano. Però, aggiunge Tremonti, nessuno gli ha veramente chiesto niente. Insomma, è stato informato blandamente, ma tenuto sostanzialmente ai margini della faccenda. D'altra parte, era una trattativa multinazionale e fondamentalmente privata, nella quale... Però il punto qual è? Il punto è che c'è un'altra scuola che dice no, il governo italiano avrebbe dovuto fare di più e non ha fatto di più perché era in mezzo agli scandali delle Vallette, di tutta questa roba qua. Qual è la verità secondo lei, Giannino? Ma la mia opinione è che Tremonti abbia, per così dire, risposto, perché la questione è stata posta anche da autorevoli giornali. Ricorderà che lo stesso Corriere della Sera, sempre a firma di Massimo Mucchetti, era intervenuto quando sembrava oramai evidente che l'ipotesi Fiat su Opel tramontava a vantaggio di quella di Magna. Il Corriere della Sera, in prima pagina, aveva scritto un singolare commento dove il titolo era "Lo Stato entra a gamba tesa", e quindi sembrava una critica alla decisione tedesca, ma poi il corpo dell'editoriale diceva gli italiani hanno commesso un errore, perché è evidente che oramai sono i politici a giocare, bisognava prendere sul serio il governo tedesco, il sindacato tedesco, ed agire con facendo sedere allo stesso tavolo anche l'interlocutore politico italiano. Allora, Tremonti secondo me dice la verità, e cioè si chiama fuori, nel senso che dice: noi non ci siamo seduti a quel tavolo perché l'azienda non ci ha ritenuto più opportuno che noi non ci sedessimo. Detto questo, come la penso io? Io penso che il governo tedesco, segnalo che già oggi, cioè ieri, ma oggi sui giornali, cancelliere Merkel fa una mezza marcia indietro e ci rivela quanti dubbi, quanti rischi vengano valutati dalla politica tedesca in questa scelta di Magna sotto elezioni, perché dice non è una scelta definitiva. Ma il governo tedesco e anche quello americano di Obama, anche se lì il traguardo elettorale è più lontano, si siano messi in condizioni di fortissimo rischio, perché farsi giudicare su risorse pubbliche di miliardi e miliardi messe al servizio di risanamenti su quali la politica difficilmente darà un indirizzo di efficienza, espone la politica a dei rischi terribili. Io in piccolo preferisco la situazione del governo italiano, che per i noti limiti di deficit e di debito pubblico queste cose non le può fare, al di là delle ambizioni, perché almeno la politica italiana tante volte ci ha dimostrato nei decenni quanti pasticci possa fare quando è azionista. Vediamo l'Italia. Almeno noi in questa condizione lasciamo liberi ciascuno di fare la loro partita, mentre l'Europa e l'America, dei governi che decidono, si mette in condizioni difficili. Se lei fosse un elettore tedesco, lo dico a chi ci ascolta, perché accettare per esempio che i denari dati a Opel non vengano dati anche ad Arcandor, cioè un grande gruppo di supermercati, grandi agenzie di viaggio, Thomas Cook e così via, che sono in fila per chiedere anche loro i soldi, per esempio? No, ma il pasticcio è ancora peggiore. Mucchetti ha fatto un'osservazione molto acuta, ha detto: ma siamo sicuri che i cinesi, i quali comprano il debito pubblico americano, siano così contenti del fatto che i loro soldi adesso servono per sostenere, si tratta del 70% della General Motors, quindi e debiti conseguenti, per sostenere un loro concorrente sul mercato dell'automobile? Cioè, no? Insomma, ci sono rischi planetari, perché con la Casa Bianca al 70% nella General Motors tutto si scombina, diciamo. Adesso la dico in modo così provocatorio, ovvio che non è la Casa Bianca, c'è un management, Obama dice faranno loro, però insomma sono novità, e sono novità di un certo peso. Bene, affrontiamo la questione più scabrosa, fallimento General Motors e fallimento dell'operazione Marchionne Opel. La questione più scabrosa è che cosa succede adesso, perché poi la Fiat, insomma, ce l'abbiamo qui, la Fiat è parte del patrimonio industriale italiano, oltre che essere un'azienda molto internazionalizzata. La sostanza chiedo a Daniele Bellasio, la sostanza della faccenda è questa. La Fiat è un'azienda relativamente in posizione migliore rispetto ad alcuni suoi concorrenti, ma è certamente un'azienda molto indebitata, e di cui gli esperti dicono sta cercando di costruire un progetto in cui poi possono rientrare nuovi modelli, un grande sforzo di marketing, eccetera. Però oggi la Fiat, insomma, è come tutte le altre aziende automobilistiche, fondamentalmente un'azienda in crisi, con qualche indicatore in ripresa. Ora, Marchionne è stato veramente eroico, perché ha detto: io sono un'azienda in crisi, ma ho un progetto industriale, lo posso mettere sul tavolo, mi prendo la Chrysler e mi prendo la Opel. Ora la Opel pare che non ci sia più. La Chrysler invece c'è, e abbiamo ricordato prima quanto perde la Chrysler. Allora, da qui ai famosi 6 milioni di vetture prodotte anno, da qui alla concentrazione Fiat, Chrysler e punto interrogativo, non si sa bene chi, non ci sono gravi, seri rischi per l'azienda di Marchionne? Beh, sì, ci sono seri rischi, tanto che la famiglia appunto il nocciolo duro, come diceva prima anche Giannino, che tanto aiuta le industrie automobilistiche, l'ha capito e sta cercando un modo per far crescere l'azienda e nello stesso tempo diluirsi in questo affare. Ricordo per esempio che la Exor, che è una forte guidata da John Elkann, ha varato un aumento di capitale di recente, ma ha tenuto a specificare che nulla di quell'aumento di capitale sarà investito nell'auto, come dire che l'auto deve crescere per altre vie, appunto per aggregazioni esterne, non per investimenti interni italiani. Io penso che Marchionne in questo momento stia tentando di aprire altri fronti in Europa con la, probabilmente sui giornali di oggi si riparla della Peugeot, con la stessa idea che aveva prima di aiutare gli americani a comprare le auto piccole prodotte in Europa e vendere in Europa le auto grosse prodotte in America. Penso però che commetta un errore nel ritenere un totem intoccabile la questione dei 6 milioni di veicoli prodotti l'anno, perché penso sia invece più importante puntare sui mercati emergenti. Nei mercati già emersi il mercato dell'auto è praticamente saturo, dicevamo prima le cifre di quante auto possono essere prodotte e quante invece vengono vendute. Bisogna puntare invece sui mercati emergenti, come in parte la Fiat ha già fatto in Sud America, e per questo io considero, una mia opinione personale, ma considero l'alleanza con l'indiana Tata la strategia più azzeccata. La Tata vende soltanto, diciamo così, 600.000 automobili, quindi non aiuterebbe la Fiat Chrysler ad avvicinarsi ai 6 milioni, al totem dei 6 milioni di vetture vendute l'anno, però ha due vantaggi forti. Primo, il radicamento in un mercato emergente come quello indiano, e il secondo, che secondo me sarà il mercato del futuro, uno sviluppo molto forte sull'auto low cost, perché quello che questa crisi globale ci ha insegnato è che chi sa fare prodotti molto belli, per esempio la Ford se la cava bene perché l'ultima Fiesta e l'ultima Ka sono due modelli molto belli, oppure chi sa produrre dei prodotti a basso costo ma ad alte prestazioni, in questo la Tata sta dimostrando di saperlo fare, sopravvive bene. L'unione di questi due ingredienti, prodotti molto belli e capacità di produrre a basso costo, è secondo me l'unica strategia che permetterà al settore dell'auto di sopravvivere senza con gli aiuti di Stato, perché Marchionne non può scoprire oggi che l'industria dell'automobile è legata alla politica, perché negli ultimi 20 anni, tra rottamazioni e incentivi continui a cambiare i modelli, il Wall Street Journal qualche giorno fa prendeva in giro Obama dicendo: vabbè, ma tu non puoi ristrutturare il mercato dell'auto semplicemente vietando tutti i tipi di veicoli precedentemente prodotti, perché è chiaro che così aiuti a vendere auto nuove, però nello stesso tempo mandi in confusione e in crisi il ceto medio che con l'auto ci va a lavorare. Ecco. Certo, certo. Romano, che può fare adesso Marchionne? Questa è la vera domanda che tutti si fanno. Quanto è pregiudicata la possibilità di non soltanto tirare fuori la Fiat dalla crisi, ma anche di rilanciarla come grande multinazionale dell'auto? Ho l'impressione che i mercati emergenti a questo punto siano una delle poche strade che rimangono. È possibile un accordo con Peugeot ed è possibile un accordo con BMW. Sono due società familiari, perché i Quant controllano BMW e Peugeot è controllato dalla famiglia Peugeot. Certamente da quel punto di vista un accordo familiare con la famiglia Agnelli e con Fiat è possibile, ma ho l'impressione che non sarà così facile, perché ambedue le società, sia BMW sia Peugeot, vogliono accordi ma vogliono rimanere indipendenti. E quindi ho l'impressione che sarà molto difficile, soprattutto in questa fase di politica europea, dove dopo un decennio di integrazione stiamo invece affrontando un possibile decennio di grande difficoltà europea. Ecco, lei in una sua nota diceva che i rapporti tra Italia e Germania sono fortissimi, perché siamo veramente dei partner commerciali, e sotto altri punti di vista anche molto stretti, però sono minimali, cioè i grandi progetti non tirano più in Europa. E anche Riotta nel suo editoriale di ieri diceva: l'Unione si è fermata, insomma, dopo il no al trattato costituzionale l'Unione è quel luogo dove i grandi progetti tendono a non nascere più. Visto che tra l'altro si vota per il Parlamento europeo tra poco, Giannino, cosa significa questo? Insomma, significa che questa crisi terribile del dopo Lehman Brothers ci ha messo nelle condizioni di fare i conti con un'Europa virtuale e un'Europa reale. L'Europa virtuale è quella descritta con grande passione, lo capisco, negli editoriali di Mario Monti, cioè questo soggetto che aveva imposto questo straordinario progetto di una politica correnziale comune, di limiti agli aiuti di Stato per uscire dai nostri comuni difetti, ma con un'area integrata di mercato. La realtà è che le risposte poi alla crisi sono state risposte nazionali. I tedeschi fin dall'inizio hanno detto no a ogni piano cofinanziato europeo. I tedeschi, paese leader dell'Unione Europea, il più manifatturiero, il più esportatore, hanno detto ogni paese faccia in proporzione alle virtù del proprio passato. Noi siamo stati più virtuosi, faremo di più per noi, ma ciascuno si regoli di conseguenza. Ecco, questa è secondo me la spiegazione alle brutte della sua domanda. Certo, e quindi per noi europei, ma certo, soprattutto italiani gravati dal nostro passato, significa fare i conti con questa realtà, ed è una realtà secondo me che ci obbliga a una strada un po' diversa dal nostro tradizionale passato. Noi, il paese più statalista, più ricco di inframmettenze, dovremmo invece rilanciare oggi siamo nella condizione di dover invece farci forti, di non avere più questa caratteristica. Bene, che gli altri accentueranno tantissimo. Bene, grazie infinite a lei Oscar Giannino, a Daniele Bellasio, a Beda Romano, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerreri, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matè. Grazie ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domani mattina alla stessa ora, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Un bacio.